Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Bentornati a Tra le righe da Adelaide. Oggi vi propongo un'intervista realizzata con Paola Ducci domenica 4 marzo sul suo libro Charlotte Sometimes, pubblicato da Carte Editore. Buon ascolto e ci risentiamo alla prossima. Le interviste di Tra le righe. Oggi a Tra le righe Paola Ducci, autrice di Charlotte Sometimes, pubblicato da Carte. Buonasera Paola. Buonasera Adelaide. È un piacere. Questo libro è un noir, no? Un sì. Noir molto a tinte molto forti, una storia con un che di onirico anche, incentrata sulla scomparsa di una ragazza, un mistero la cui soluzione spetta ad un commissario al rientro al lavoro dopo mesi di assenza. È un libro che è ambientato ai primi anni Ottanta tra Berlino e la provincia italiana. Qual è stata la scintilla originaria di questo romanzo, proprio il concepimento? Guarda, forse due momenti particolari. Uno sicuramente il voler raccontare l'ambientazione dell'epoca, nel senso che mi piaceva molto raccontare gli inizi degli anni Ottanta con tutta questa anche questa caratteristica del rock degli anni Ottanta, quindi di un certo tipo di musica, della new wave, in una città che non era comunque la classica, diciamo, metropoli o comunque città grande italiana, come invece era Perugia, no? E che peraltro conosco per tutta una serie di motivi di studio, di insomma attività lavorative. E quindi mi piaceva molto raccontare quel, come dire, quel cuneo, no? In cui un certo tipo di cultura anglosassone, di musica, di cambiamento, anche storico di quegli anni, che erano gli anni di piombo, eccetera, veniva vissuta in una cittadina, in una città piccola, abbastanza tranquilla, no? In qualche modo un po' fuori da certi circuiti, sia musicali che politici di quell'epoca. Questo sicuramente una prima scintilla. E l'altra scintilla era il voler raccontare quello che poi secondo me è proprio il tema della storia, che ho scoperto solamente dopo averla scritta, peraltro. E il tema è quello che a volte si ha talmente tanta difficoltà ad accettare un distacco, ad accettare un cambiamento, in questo caso diciamo un lutto come una perdita di un amore, eccetera, è talmente tanto difficile accettare questo che si preferisce inventarsi un'altra vita, come dire, fare finta di vivere in un sogno, no? E quindi è un po' questa duplice origine, no? L'origine tematica e quella proprio più puramente geografica e anche proprio storica, quegli anni in una città piccola italiana, capito? Sì. Questo insomma direi. La canzone che dà il titolo al libro, sì, accompagna questa storia pagina dopo pagina, sembra quasi di sentire, tra l'altro una canzone che io amo molto. Come mai hai scelto questo brano dei Cure, che tra l'altro il cui titolo è ispirato a un racconto di una Penelope Farmer pubblicato nel 69 e che ebbe con i Cure qualche piccolo insomma diverbio in sì, merito? Sì, è vero. Ma probabilmente io credo che sia proprio legato al testo più che alla storia del brano, nel senso il testo è un testo onirico, è un testo dedicato ad una figura che è una figura che perlomeno per come l'ho diciamo interpretata io, vissuta io il brano, il testo, una figura che mi ha immediatamente ricordato la mia protagonista. E anche quel tipo di struggenza, no, che viene fuori dalla scrittura di Robert Smith, il fatto di, come dire, di rappresentare, di identificare una figura femminile così vicina, così amata e contemporaneamente così lontana, così inafferrabile, forse per una follia, forse per una impossibilità ad amare completamente, questo direi, che è un po' questa la storia, diciamo, del mio protagonista rispetto alla sua ragazza che scompare, insomma. Dentro questa storia ci sono altre storie di tragica e drammatica umanità, no? Però io ho avuto la sensazione che i personaggi del romanzo siano avvolti da una cappa di solitudine che li fa interagire fra di loro, ma senza una vera comunicazione emotiva. E questi stessi personaggi sembrano quasi distaccati dall'ambiente, non ben integrati nell'ambiente in cui si muovono. È una mia sensazione o mi sbaglio, insomma? No, avrai assolutamente, anzi, sono molto, mi piace molto che tu abbia avuto questa sensazione, perché è proprio questo quello che evidentemente io volevo dire, senza, ti ripeto, avere la consapevolezza di volerlo dire. Io credo che quando si scrive, si vuole, voglio dire, raccontare una storia, no? Far conoscere i personaggi, organizzare una trama, portare il lettore a una soluzione, però comunque passano dentro tutta un'altra serie di emozioni di chi scrive, che non sono affatto consapevoli. E credo che quello che tu dici sia giustissimo, ma lo posso dire solo a posteriori. Io non ho scritto pensando di raccontare delle solitudini, no? Però in effetti i miei personaggi sono tutti, devo dire, legati da questa caratteristica, esattamente quella che tu hai identificato, perfettamente quella. L'essere, anche se apparentemente non soli, anche se apparentemente amati o amanti, fondamentalmente ognuno di loro chiuso in una specie di nucleo di solitudine, ed è un po', io credo, quello che è per me la rappresentazione di quegli anni, non personale, non privata, è proprio a livello più, forse anche proprio storico. Io credo che quegli anni siano stati caratterizzati da questo. Ecco, da questo. Infatti, da questo insieme di umanità che probabilmente partecipavano anche di interessi comuni, di ideali comuni, di progetti comuni, eppure ognuno di loro solo nel proprio nucleo. Questo io credo che sia la rappresentazione di quegli anni, di quelli che da noi vengono definiti gli anni di piombo, per capirci, insomma, anche se il mio libro non tratta di questo, ovviamente, no? Cioè, è proprio assolutamente tangenziale questo aspetto. Insomma. Sì, a dare questa è la classica scrittura di pancia, no? Quella che sì, viene assolutamente spontanea, non pensata a tavolino, ed è una scrittura che dà molto la dimensione al lettore, dà molto la tensione emotiva, soprattutto nei periodi brevi che si trovano in alcune pagine. Ci sono dei momenti in cui tu hai scelto inconsciamente, da autrice che scrive di getto probabilmente, la scrittura con i periodi brevi, cioè la lettura diventa lì molto ansiosa, ansiogena, ma credo sì, che sia proprio il merito di un libro noir che si rispetti. Quanto c'è della Paola Ducci come della Paola Ducci sceneggiatrice in questo in Charlotte Sometimes? Guarda, rispetto al linguaggio e alla scelta stilistica, direi che io scrivo così, ma non ho sempre scritto così. Direi che, poiché scrivo da anni short stories, insomma, racconti e poi appunto tutto l'ambito più propriamente, diciamo, televisivo, quindi che attiene alla scrittura per le immagini, io però comunque la narrativa, non voglio dire, adesso il mio linguaggio è questo, però in realtà sono arrivata a questo, e devo dire che questa è una scelta invece precisa, in qualche modo razionale, consapevole, no? Io credo che questo tipo di struttura del linguaggio sia più aderente a quello che io voglio far arrivare, questo effetto ansiogeno, questo effetto forse anche non drammatico, però forse doloroso, no? Proprio perché racconto delle storie dolorose o comunque dei sentimenti dolorosi, e sicuramente però del mio lavoro, della mia attività di sceneggiatrice passa nella narrativa il piacere di portare il lettore a vedere le cose, il mondo che creo, i miei personaggi, più che raccontare la storia con le parole. Mi piace permettere al lettore di vederla la storia, capito? Questo credo che invece sia legato al tipo di attività che svolgo, insomma. Tu hai detto adesso che permette al lettore di vedere. Infatti, un'altra sensazione che io ho avuto, al di là del fatto che la storia sia ambientata in un preciso periodo storico, però l'altra sensazione che ho avuto io come lettrice è stata quella che invece fossero fuori dal tempo i personaggi, perché per tutta la durata della lettura io li ho visti semplicemente in uno spazio atemporale e avvolti sempre dalla nebbia, cioè non ho mai visto un'immagine di luce, di giorno, di sole, perennemente, ma non mi ha disturbato. Credo che la tua bravura, permettimi di farti un complimento, non sarà tacciata Grazie. di piaggeria, sia anche stato a questo, cioè creare un'immagine dove collocare i personaggi, un'immagine molto netta, senza sbavature, però per me fuori dal tempo. Sì, assolutamente sì, nel senso che ho, come dire, settato la mia storia in un'epoca precisa, in una geografia precisa. Poi però quello che volevo raccontare era tutto un insieme un groviglio di sentimenti, di passioni e anche di difficile comprensione, forse, che io credo siano grovigli assolutamente atemporali, assolutamente non collegabili a un certo periodo storico particolare o geografico particolare, ma forse attengono semplicemente all'essere umano, no? A quello che prova, alle rimozioni, alle frustrazioni, alle incapacità, credo questo poi alla fine, no? E credo che però quegli anni e quella, diciamo, quelle location mi siano servite proprio perché si portano dietro un po' questo, la nebbia, il freddo, un certo tipo di musica, un certo tipo di, appunto, di geografia, insomma, no? Anche stagionale, non so come dire, no? Il fatto che sia novembre piuttosto che agosto, per esempio, capito? Per Sì. dire, no? Credo che tutto questo faccia parte di un quadro preciso dove io ho voluto collocare certi sentimenti, che non sono sentimenti solari, ma sono sentimenti cupi, no? Piuttosto, come dire, sì, cupi, lunari, ecco, assolutamente noir in questo senso. Il noir è proprio questo, poi, secondo me, no? Da noi in Italia il noir è, insomma, un insieme un po' confuso di cose. E, il noir effettivamente è l'aspetto, è la parte oscura, no? E quindi è sì raccontare una storia in cui c'è un'indagine, ci sono dei sospetti, c'è qualcuno, una storia di detection, qualcuno che scompare piuttosto che essere ucciso e qualcuno che indaga, ma in realtà non è quella la storia, no? La storia è tutto quello che c'è intorno, che spesso non viene neanche detto, no? Ma che passa attraverso gli ambienti, le atmosfere, le musiche, no? I comportamenti, tutto quello che il lettore, spero, riesca a vedere attraverso la mia scrittura, insomma. Sì, è uno spleen, quello che È gli uno spleen, assolutamente, americani sì. chiamano uno spleen. Assolutamente. A proposito di noir, tu tieni corsi di scrittura creativa di genere e a giudicare dalla quantità di pubblicazioni che ci sono in Italia ogni settimana, sembra che sia il genere più amato, dai lettori italiani. Quanto Sì. interesse c'è attorno ai tuoi corsi? Cioè, tu dove tieni i tuoi corsi innanzitutto? Io tengo i miei corsi in alcune associazioni culturali a Roma, in UPTER, che è una grossa università che ha comunque sede fondamentalmente a Roma e nella provincia di Roma, diciamo. E poi tengo delle lezioni presso le librerie, insomma, no? Presso corsisti che sono chiaramente interessati sia a questo tipo di genere che magari, appunto, come nella mia attività specifica, lezioni rispetto alla scrittura per le immagini, quindi destinate alla televisione, al cinema, ai cartoni animati e così via. E devo dire dire che sicuramente intorno al noir c'è proprio una, come dire, c'è una selezione di assoluti lettori affezionati, non so come dire, però ti ripeto, in Italia il noir, ma lo vedo anche per i miei corsisti, per i lettori del genere, il noir viene spesso confuso con quello che è semplicemente, dico fra virgolette, semplicemente non è riduttivo, il thriller, no? Il fra virgolette poliziesco, non è propriamente la stessa cosa. Il noir è proprio un genere che ad esempio non nasce nei paesi anglosassoni, quindi è assolutamente diverso rispetto all'approccio che abbiamo noi in Italia a questo tipo di scrittura e anche di argomento, capito? E sono più i giovani o gli adulti? Cioè che fascia di età è interessata a questi corsi? E se hanno delle velleità letterarie o sì, se sono soltanto degli amanti del genere? Guarda, tutti hanno delle velleità e questa secondo me è una cosa bella, perché io credo che scrivere sia molto democratico, nel senso che alcuni si approcciano dicendo ma noi non siamo in grado, non credo che sarò mai in grado di scrivere un romanzo. Io dico che in realtà si può fare, no? Come la famosa battuta di Frank Sinatra, si può fare, assolutamente si può fare. È chiaro che c'è, come dire, un discrimine che è quello, sì, la conoscenza delle tecniche, un approccio al lavoro anche organizzato, anche in qualche modo razionale, e poi c'è un discrimine fondamentale che è quello del talento, che non è legato alla storia fantastica che vuoi scrivere, che è originalissima, ma proprio al talento personale, no? E questo credo che sia anche giusto chiarirlo, insomma, no? Però di fatto quello che poi in editoria viene definito un buon prodotto può essere tranquillamente essere prodotto appunto magari con un po' di lavoro tecnico, di pazienza, assolutamente si può fare, assolutamente sì. E quindi tutti hanno desiderio di voler comunicare la loro storia, quello che vogliono scrivere, secondo me è anche giusto, chi scrive non ha voglia di tenere il manoscritto nel cassetto, no, ha voglia di essere letto. Il problema è vieni letto con piacere, funziona quello che hai scritto, non funziona, è questo poi, no? E quindi assolutamente tutti, chi lo confessa, chi non lo confessa, tutti hanno il desiderio poi di essere letti, comunque di far qualcosa con questo manoscritto, e la fascia di età è sicuramente dai 25 ai 40, 45, è quella più numerosa e anche quella più motivata. Prima ci sono chiaramente altre dinamiche, altri interessi, una vita che insomma si deve un po', anche certi interessi, certi talenti devono essere un po' riconosciuti, insomma, e dopo c'è un approccio diverso che è quello del desiderio di voler raccontare la propria storia personale, non una storia di finzione. Io invece mi occupo esclusivamente di narrativa di finzione nei miei corsi, quindi non faccio corsi di autobiografia e cose così, insomma, no? Quest'anno ho provato un laboratorio di memoir e devo dire che sta andando benissimo, infatti la fascia di età è molto più alta, chiaramente, no? Bellissima questa risposta, sono rimasta un po' così ad ascoltare, incantata. Tornando, perché Adelaide questa cosa? Ma perché allora io ci sono persone, no, che sanno scrivere e poi magari non hanno un eloquio, magari inceppano, non tutti possiamo fare due cose allo stesso modo, tutte e due bene. Ci sono persone che magari non si esprimono molto bene, che poi certo, però scrivono che so, divinamente. Io leggendo il libro e sentendo di ascoltare trovo che tutte e due le cose combacino, quindi mamma mia, che bel complimento che mi hai fatto. No, beh, è inutile. Anche perché io ho proprio anche molta abitudine a parlare alle persone, un po' perché mi piace, un po' proprio per lavoro, insomma i corsi sono questo, ma i corsi sono soprattutto di comunicazione fra di noi, no? Cioè si crea un gruppo, le persone che scrivono hanno prima paura, timore di comunicare quello che scrivono, poi viene invece fuori questo desiderio grande di farlo, e allora ci deve essere assolutamente il classico braccia aperte, no? è chiaro poi con un minimo di governo ovviamente, no? Cioè non tutto può andare bene, molte cose devono essere modificate, io a volte fra virgolette stronco anche il mio ruolo, però è assolutamente sempre, come dire, nella logica del deve funzionare, e se non funziona non è perché non mi piace, è che proprio non funziona, non arriva, è proprio perché la comunicazione deve essere il più possibile potente, io lavoro intorno a questo, no? Quindi poi alla fine i corsisti magari dopo qualche momento di così capiscono perfettamente e allora si lanciano alla grande, insomma, quindi va bene. Allora sai, parlare così è per me anche abbastanza normale perché parlo con loro spesso, no? Così. Sì, chiaramente. E tornando al tuo libro, la storia si chiude e sembra rimandare a un sequel. Io sono rimasta un po' così, dico, aspetta, dico, ci sarà un altro sì, ci sarà un sequel. Assolutamente sì, che sto scrivendo, assolutamente sì, dove peraltro il protagonista è spostato, cioè nel senso che non sarà, cioè non ho voluto assolutamente serializzare la storia o serializzare come si fa spesso il personaggio principale. Anzi, ho voluto proprio fare una cosa diversa, ho scelto un personaggio assolutamente ellittico e l'ho messo, questa è un'anticipazione, nel sequel come protagonista principale, l'ho eletto a protagonista della seconda parte, insomma. Non anticipo chi è. Appunto, no, non so se lo puoi dire, ma si ha già una data di pubblicazione? No, ancora no, ancora non l'abbiamo, però insomma dovrebbe essere una cosa abbastanza vicina, diciamo così, insomma. Ah, sì, bene. Allora lo aspettiamo e per adesso ti salutiamo, è stato un piacere Paola, averti avuto con noi a Tra le Righe, grazie mille, okay, buona domenica. Ti ringrazio e ti ringrazio. Arrivederci. Ciao, grazie. Tra le Righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.